vado in giro nella notte facendo soliloqui, talvolta sotto un ponte scrivo una poesia. E fischio melodie che un vecchio musicista ascolta con pazienza e poi non va più via. Maria. Gesù, Gesù, quanto amore, Gesù, Gesù, quanto bene, Gesù, Gesù, l'amore è andato, Gesù, Gesù, io sono uno sbandato. Senza lei sono vestito non so come, i pantaloni alla rovescia, la gamba destra non funziona, chi mi incontra scappa via. Vado a letto col maglione e non mi importa più di niente. Se la mia testa non funziona è perché sei andata via. Maria. Gesù, Gesù. Quanto amore, Gesù, Gesù, quanto bene, Gesù, Gesù, io sono un fortunato ad avere una persona come te. Vicino a me.